Divento personaggi di un circo immaginario. Disegno col pensiero il suo tendone nella stanza. Tra lacrime e sorrisi è breve la distanza. E la mia stanza è un circo per ogni circostanza. E sogno ad occhi aperti un mondo un po' retro, come le belle immagini dei film di Charlot. E sul metro delle illusioni posto ancora c'è, per chi si sente come me modernamente demode. Invento personaggi di un circo immaginario, disegno col pensiero il suo tendone nella stanza. Tra lacrime e sorrisi a breve la distanza, e la mia stanza è un circo per ogni circostanza. Mentre cammino in bianco e nero stringo il mio palto e gioco sul confine della linea immagino. Io non lo so se è solo frutto della fantasia, l'impronta da pellicola invecchiata della vita mia. E guardo fuori dalla mia finestra le gocce di pioggia sulla strada, e tiro fuori un po' la testa, quel tanto che resti bagnata. E adesso scusate se vi sembrerò banale, ma la mia follia mi impone di porgere un sorriso al temporale. Personaggi di un circo immaginario, disegno col pensiero il suo tendone nella stanza. Tra lacrime e sorrisi è breve la distanza, e la mia stanza è un circo per ogni circostanza. E adesso giù il sipario tra gli applausi, già lo so che mi godrò il finale aspettando un po' Godot. E sull'ultima scena un fermo immagine farò, diventerà il ritratto un po' distratto della mia vita retro. Lai ra ra, lai ra ra ra. E guardo fuori dalla mia finestra le gocce di pioggia sulla strada, e tiro fuori un po' la testa, quel tanto che resti bagnata. E adesso scusate se vi sembrerò banale, ma la mia follia mi impone di porgere un saluto al temporale. Invento personaggi di un circo immaginario, disegno col pensiero il suo tendone nella stanza. Tra lacrime e sorrisi è breve la distanza, e la mia stanza è un circo per ogni circostanza.